ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. In un bellissimo giorno d'autunno, simile a quel giorno dell'estate indiana che appena un anno prima aveva assistito al dichiararsi della loro passione, Martin lesse a Ruth il ciclo dell'amore. Era pomeriggio e, come quella volta, i due giovani avevano risalito in bicicletta la loro collina preferita. Di tanto in tanto la lettura era stata interrotta dalle esclamazioni di piacere di Ruth, e ora Martin, adagiando l'ultimo foglio del manoscritto sui precedenti, aspettava il giudizio di lei. Ruth non parlò subito e alla fine lo fece con incertezza, esitando a rendere in parole la durezza del suo pensiero. «Penso che siano belle, veramente belle», disse. «Ma non riesce a venderle, vero? Sai cosa voglio dire?» ripeté quasi supplicando. «Scrivi senza mai avere dei risultati pratici. C'è qualcosa che non va, forse è un problema di mercato, qualcosa che ti impedisce di guadagnarti da vivere con ciò che scrivi. Per favore, caro, non fraintendermi, eh? Io sono lusingata e orgogliosa e tutto il resto. Non sarei una vera donna se non lo fossi, che tu abbia scritto queste poesie per me. Ma non aiutano a rendere possibile il nostro matrimonio. Non lo vedi, Martin? Non pensare che io sia interessata al denaro, eh? Si tratta di amore. Ciò che mi opprime è il pensiero del nostro futuro. È passato un intero anno da quando abbiamo scoperto di amarci e la data del nostro matrimonio non si è avvicinata di un solo giorno. Non giudicarmi sfacciata perché ti parlo così delle nostre nozze, eh? In questo momento ciò che davvero mi sta a cuore, tutto ciò che sono, è minacciato. Perché non provi a cercare un posto nella redazione di un quotidiano, se sei così preso dalla scrittura? Perché non diventi un reporter, eh? Magari solo per un po'. Rovinerebbe il mio stile, rispose Martin con una voce bassa e monotona. Non hai idea di quanto io vi abbia lavorato. Ma quelle novelle, lei si oppose, le hai chiamate lavoro mercenario, ne hai scritte tantissime. Quelle non hanno rovinato il tuo stile? No, no, è diverso, disse lui. Posso completare una novella senza problemi dopo aver passato un'intera giornata a lavorare sul mio stile. Ma il lavoro di un reporter è mercenario dall'alba al tramonto, è l'unica cosa nella vita. Ed è un tornado di vita in cui non c'è spazio per il passato o per il futuro, ma solo per il presente. E di certo non c'è spazio per pensare allo stile, tranne che a quello cronachistico, che è ben lontano dalla letteratura. Diventare un reporter adesso, proprio quando il mio stile sta prendendo forma, si sta cristallizzando, significherebbe commettere un suicidio letterario. Ogni novella, ogni parola di ogni novella, è stata una violenza contro me stesso, contro il rispetto di me stesso, contro il rispetto che provo per la bellezza. Lascia che te lo dica. È stato nauseante. Ho peccato e sono colpevole. Dentro di me mi sono sentito felice quando l'agenzia mi ha scritto che il mercato era saturo, anche se ho dovuto impegnare i miei vestiti. Ma la gioia di scrivere il ciclo dell'amore, la gioia della creazione nella sua forma più nobile, quella mi ha compensato di tutto il resto. Martin non sapeva che Ruth non era in grado di condividere con lui la gioia della creazione. Era solo una frase che lei talvolta usava. Lui l'aveva ascoltata per la prima volta proprio dalle sue labbra. Durante l'università, nel guadagnarsi la sua laurea in lettere, Ruth aveva letto, aveva studiato la creazione artistica, ma lei in sé non aveva né originalità né spirito creativo. Tutte le sue manifestazioni di cultura erano ripetizioni di ripetizioni altrui. Non può essere che gli editori avessero ragione nel correggere le liriche del mare? Lei gli domandò. Ricorda, un editore deve avere delle qualifiche ben definite, altrimenti non potrebbe diventarlo. Il che è perfettamente in linea con la persistenza delle convenzioni, le ribatté Martin, mentre l'ira contro la genia degli editori prendeva il sopravvento. Ciò che è non solo giusto, ma è anche il meglio in assoluto. L'esistenza di qualsiasi cosa è sufficiente per affermarne l'idoneità all'esistenza. All'esistenza, fa attenzione, secondo l'inconscia convinzione della persona media, e cioè non solo delle condizioni presenti, ma in ogni condizione, naturalmente. È la loro ignoranza ciò che li porta a credere certe stupidaggini. La loro ignoranza che non è nulla di più e nulla di meno del processo mentale enidico descritto da Weininger. Pensano di pensare, e quelle creature prive di pensiero sono gli arbitri della vita dei pochi che davvero pensano. Martin si interruppe, sopraffatto dalla consapevolezza di aver parlato al di là della capacità di Ruth. Credo di conoscere questo Weininger, ribatté lei. Sei così terribilmente generico che non riesco a seguirti. Ciò di cui io stavo parlando erano le qualifiche necessarie per diventare editori. Ecco, interruppe Martin, la qualifica principale del 99% degli editori è il fallimento. Hanno fallito come scrittori. Non credere che preferiscano sfacchinare dietro una scrivania, schiavi delle tirature e degli amministratori, alla gioia dello scrivere. La verità è che hanno cercato di scrivere e che non ci sono riusciti. Ed ecco il maledetto paradosso di tutto questo. Ogni cancello per accedere al successo in letteratura è sorvegliato da quei cani da guardia, da quelli che hanno fallito nella letteratura. Gli editori, i vice editori e i condirettori, la maggior parte di loro, i lettori di manoscritti per riviste o editori di libri, la maggior parte di loro, quasi tutti, sono uomini che avrebbero voluto scrivere e hanno fallito. Eppure proprio loro, quelle meno adatte tra tutte le creature sotto il sole, sono le creature che decidono ciò che verrà e ciò che non verrà stampato. Proprio quelli che hanno mostrato di non possedere alcuna originalità, di essere privi del fuoco divino, proprio quelli siedono in giudizio dell'originalità e del genio. E dopo di loro vengono i recensori, altrettanti falliti. Non dirmi che non hanno mai sognato, mai tentato di scrivere poesie o romanzi. Ah, al contrario, l'hanno fatto e hanno fallito. La recensione media è più nauseante dell'olio di fegato di merluzzo. Ma tu già conosci la mia opinione sui recensori e sui critici riconosciuti. Oh no, ci sono anche dei grandi critici, ma sono rari come comete. Se fallirò come scrittore, avrò acquisito le qualifiche necessarie per diventare un editore. Almeno così riuscirò a guadagnarmi pane e companatico. La mente di Ruth era agile. Le contraddizioni che scorse in quella polemica rinforzarono la sua disapprovazione per le opinioni del suo amato. Ma Martin, se ciò fosse vero, se tutte le porte fossero chiuse, come hai dimostrato adesso in modo così convincente, com'è possibile che i grandi scrittori abbiano avuto successo? Hanno avuto successo perché sono riusciti a realizzare l'impossibile, lui le rispose. Hanno compiuto un'opera così gloriosa e fiammeggiante da ridurre in cenere chiunque tentasse di opporsi. Hanno avuto successo, grazie a un miracolo, vincendo una scommessa data a 1000 contro 1 in loro sfavore. Hanno avuto successo, perché come i giganti di Carlyle, tutti coperti di ferite, non possono essere fermati. E questo è ciò che devo fare anche io. Devo riuscire a realizzare l'impossibile. E se fallisci, devi pensare anche a me, Martin. Se fallisco. La guardò per un istante, come se non riuscisse a considerare il pensiero da lei espresso. Poi la luce della comprensione illuminò i suoi occhi. Se fallisco, diventerò un editore. E tu, la moglie di un editore. Ruth fremette alla sua battuta un elegante, adorabile fremito che spinse Martin ad abbracciarla e a baciarla. Bene, adesso basta, disse Ruth, sottraendosi con uno sforzo al fascino della sua forza. Ho parlato con mia madre e mio padre. Non ho mai imposto loro la mia volontà come adesso. Gli ho chiesto di ascoltarmi. Sono stata davvero irrispettosa. Loro ti sono contrari, e lo sai, ma io li ho assicurati della sincerità del mio amore per te. E alla fine mio padre ha detto che se vuoi puoi iniziare a lavorare anche subito nel suo ufficio, eh? E poi, spontaneamente, ha aggiunto che ti pagherà abbastanza in modo che possiamo sposarci e prenderci un piccolo cottage da qualche parte. Beh, penso sia stato molto generoso da parte sua, vero? Cuore pieno del sordo dolore della disperazione, mormorò qualche suono inarticolato mentre muoveva la mano verso la tasca ormai vuota, nel gesto meccanico di prendere il tabacco e le cartine per farsi una sigaretta. E Ruth continuò: sinceramente, permettimi di dirti che cosa pensa davvero di te mio padre, ma non lasciartene ferire. Non gli piacciono le tue idee radicali e pensa che tu sia pigro. Io so che non è vero, so che lavori duramente. Quanto duramente? Non lo sai neppure tu, fu il pensiero di Martin. Va bene, e allora, disse, tu che cosa pensi delle mie idee? Anche tu le giudichi così radicali? Continuò a guardare Ruth negli occhi e attese la risposta. Io penso che siano sconcertanti, rispose lei. Martin aveva avuto una risposta alla sua domanda. E si sentì così oppresso dal grigiore dell'esistenza da dimenticarsi della timida offerta di lavoro che Ruth gli aveva presentato. E lei, avendo osato tutto l'osabile, era pronta ad aspettare la risposta di Martin fino a quando non fosse stato proprio necessario ripetere quell'offerta. Ma non dovette aspettare a lungo. Martin aveva qualcosa da domandarle. Voleva accertarsi di quanta fiducia Ruth avesse in lui, e dentro la settimana entrambi ebbero le loro risposte. Fu proprio Martin ad accelerare i tempi, leggendole La vergogna del sole. «Perché non diventi un reporter?» gli chiese lei quando ebbe finito. «Ami così tanto scrivere, eh? Sono sicura che avresti successo. Potresti fare carriera e diventare un giornalista famoso. Ci sono molti corrispondenti speciali. Guadagnano bene e il loro campo di lavoro è il mondo. Vengono mandati dappertutto, nel cuore dell'Africa, come Stanley, o a intervistare il Papa, o a esplorare le regioni sconosciute del Tibet. Allora il mio saggio non ti piace?» ribatté lui. Credi che io abbia qualche possibilità nel giornalismo, ma non nella letteratura? No, no, non mi piace, disse lei. Scorre bene, ma temo che sia al di sopra delle capacità dei tuoi lettori. Almeno è al di là delle mie. Suona bene, ma non riesco a capirlo. Il tuo gergo scientifico mi è incomprensibile. Sai, caro, tu sei un estremista. E ciò che può essere comprensibile per te può non esserlo per gli altri. Immagino che siano i termini filosofici a crearti dei problemi, disse lui, e fu tutto ciò che gli riuscì di dire. Martin era infiammato dalla fresca rilettura dei pensieri più maturi che avesse mai espresso, e il verdetto di Ruth lo aveva paralizzato. «Non importa se è scritto male», insisté. «Non vive di nulla. Nell'idea stessa, voglio dire». Ruth scosse la testa. «No, è così diverso da tutte le altre cose che ho letto. Leggo Matterlack e lo capisco. Il suo misticismo, ma quello lo capisci?» esclamò Martin. «Sì, ma il tuo, che dovrebbe essere un attacco contro di lui, non lo capisco». «Naturalmente, se si parla di originalità...» Martin la fermò con un gesto impaziente, ma non vi fece seguire alcun discorso. Poi, all'improvviso, si rese conto che Ruth stava parlando e che parlava da alcuni minuti. «Dopotutto scrivere per te è stato una specie di gioco, eh?» stava dicendo. «E certamente vi hai giocato abbastanza. È tempo di prendere la vita seriamente. La nostra vita, Martin. Fino ad ora hai vissuto solo la tua». «Vuoi che mi trovi un lavoro?» le chiese lui. «Sì, papà si è offerto, lo so», la interruppe Martin. «Ma quello che voglio sapere è se hai ancora fiducia in me, oppure no». Ruth gli strinse la mano senza parlare, gli occhi spenti. «Non in quello che scrivi, tesoro», ammise in un mezzo sussurro. «Hai letto molto di quello che ho scritto», Martin continuò brutalmente. «Che cosa ne pensi? Non c'è nessuna speranza? Come ti sembra, paragonato al lavoro di altri scrittori?» «Ma quegli altri scrittori riescono a vendere ciò che scrivono, mentre tu...» «No, non è una risposta alla mia domanda. Pensi che io non abbia alcuna vocazione per la letteratura?» «Va bene, ti risponderò». E Ruth, per farlo, cercò di diventare spietata. «Non penso che tu abbia talento per lo scrivere, eh? Perdonami, caro. Sei stato tu a costringermi a dirlo. Sai che conosco la letteratura molto più di te». «Sì, sei laureata in lettere», disse Martin meditabondo, «e devi conoscerla. Ma c'è qualcos'altro da dire», continuò, dopo una pausa dolorosa per entrambi. «Io so quello che ho in me, e nessun altro lo sa. So che avrò successo, non mi lascerò fermare. Le poesie, i racconti, i saggi che devo ancora scrivere bruciano dentro di me come fiamme. Eppure non ti chiedo di avere fede in questo. Non ti chiedo di avere fede in me o in ciò che scrivo. Ciò che ti chiedo è di amarmi e di avere fede nell'amore. Un anno fa ti supplicai di darmi 2 anni di tempo, eh? Uno di questi anni deve ancora passare. E io credo davvero, sul mio onore e sulla mia anima, che prima che anche quest'anno passi, avrò successo. Ti ricordi che cosa mi hai detto molto tempo fa? Che dovevo superare un periodo di apprendistato per diventare uno scrittore? Bene, l'ho fatto. Ho cercato di rendere proficuo ogni momento. Non mi sono mai tirato indietro perché sapevo che alla fine ci saresti stata tu ad aspettarmi, sai. Ho dimenticato cosa sia cadere beatamente addormentati. 1 milione di anni fa sapevo cosa significasse dormire a sufficienza, svegliarsi spontaneamente sazio di sonno. Ora vengo sempre destato al suono di una sveglia puntata a seconda di quando sono andato a dormire, presto o tardi. Puntare la sveglia e spegnere la lampada sono le mie 2 ultime azioni consce. Quando incomincio ad avere sonno, lascio il libro che sto leggendo per passare ad uno più leggero. E quando sto per addormentarmi, mi do dei pugni sulla testa per allontanare il sonno. Ho letto da qualche parte di un uomo che aveva paura di dormire. Era un racconto di Kipling. Quell'uomo sistemò uno sperone in modo che ogni qualvolta stava per cadere nell'incoscienza, il suo corpo nudo premesse proprio contro quella punta d'acciaio. Bene. Io ho fatto lo stesso. Guardo l'orologio e decido che rimuoverò lo sperone soltanto a mezzanotte, o soltanto all'1, o alle 2, o alle 3. Così il pungolo mi tiene sveglio fino all'ora prestabilita. Quello sperone è stato il mio compagno di letto per molti mesi. Sono giunto al punto che 5 ore e mezzo di sonno rappresentano un'eccezione per me. Ora dormo 4 ore per notte. E sono affamato di sonno. A volte mi sento la testa ovattata dal bisogno di dormire. A volte la morte, con il riposo e il sonno che l'accompagnano, mi sembra davvero un'attrattiva. A volte sono perseguitato dai versi di Longfellow. Il mare è immobile e profondo. Dormono le creature che abitano nel suo seno. Un solo passo e tutto è finito. Un tuffo, una bolla e più nulla. Naturalmente si tratta solo di stupidaggini. Sono il prodotto della tensione nervosa di una mente esausta. Ma il punto è, perché ho fatto tutto questo? Per te. Per abbreviare il mio periodo di apprendistato. Per costringere il successo ad affrettarsi. E ora il mio apprendistato è finito. So quanto vale il mio equipaggiamento. Giuro che in ogni mese ho imparato più di quello che un comune studente impara in un anno di college. Eppure, se non avessi un bisogno così disperato della tua comprensione, io non te lo direi. Non lo faccio per vantarmi, ma misuro i miei risultati sui libri. Oggi i tuoi fratelli sono solo dei barbari ignoranti, paragonati a me e alla conoscenza che ho spremuto dai libri di notte, mentre loro dormivano. Molto tempo fa desideravo di essere famoso. Beh, oggi non me ne importa più nulla. Ciò che voglio sei tu. Sono più affamato di te che di cibo o di abiti o di riconoscimenti. Sogno di appoggiare la mia testa sul tuo seno e di dormirvi per un secolo e più. E quel sogno si avvererà prima che un altro anno passi. La potenza di Martin si infrangeva contro Ruth, onda dopo onda, e proprio nel momento in cui la volontà di lui si opponeva maggiormente a quella di lei, la ragazza si sentì attratta da lui, come non mai. Quella forza che si era sempre riversata su di lei, ora scorreva nella sua voce appassionata, negli occhi luminosi, mentre il vigore della vita e dell'intelletto si gonfiavano in lui. Come onde, e in quel momento e per un momento Ruth si rese conto che una crepa si era aperta nel muro della propria sicurezza, una crepa attraverso la quale intravide il vero Martin Eden, splendido ed invincibile. Come i domatori d'animali in certi momenti sono assaliti dal dubbio, così Ruth per un istante dubitò di possedere un potere sufficiente per domare quello spirito selvaggio. «E un'altra cosa», continuò Martin. «Tu mi ami. Ma perché mi ami? Ciò che mi spinge a scrivere è esattamente ciò che ha risvegliato il tuo amore. Tu mi ami perché, in qualche modo, sono diverso dagli uomini che hai conosciuto e che avresti potuto amare». Io non sono fatto per la scrivania, la contabilità, per i bisticci su affari meschini e le baruffe legali. Fammi fare quelle cose, fammi diventare come quegli uomini, fare i loro lavori, respirare l'aria che respirano, insegnami ad avere il loro stesso punto di vista e avrai distrutto ogni differenza, avrei distrutto me stesso, distrutto ciò che tu ami. Il mio desiderio di scrivere è la cosa più vitale che ci sia in me. Fossi stato solo fango, non avrei mai desiderato scrivere, e tu non mi avresti mai desiderato come marito. Ma tu dimentichi qualcosa, lei lo interruppe, spinta dalla superficiale agilità della sua mente. Vi sono stati eccentrici inventori che hanno affamato le loro famiglie mentre erano intenti a cercare chimere come il moto perpetuo. Le loro mogli li amavano e soffrivano con loro e per loro. Ma non li amavano perché erano infatuati del moto perpetuo. Ma nonostante questo... «Vero», fu la risposta. «Ma ci sono stati anche inventori che non erano eccentrici e che hanno fatto la fame mentre cercavano di scoprire qualche cosa di pratico. E a volte, vi sono le testimonianze, hanno avuto successo. Ma io non cerco niente di impossibile». «Tu stesso l'hai chiamato realizzare l'impossibile», lei si intromise. «Parlavo in senso figurato», disse lui. «Sto solo cercando di fare qualcosa che altri uomini hanno fatto prima di me, scrivere e vivere grazie a ciò che scrivo». Il silenzio di Ruth lo spinse a continuare. «Allora, secondo te, il mio obiettivo è una chimera allo stesso livello del moto perpetuo?» indagò. Martin lesse la risposta nella pressione della mano di Ruth sulla sua, la mano pietosa di una madre verso il suo bambino ferito. E per lei in quel momento era il suo bambino ferito, l'uomo che, vittima di un'infatuazione, lotta per realizzare l'impossibile. Verso la fine della loro conversazione, lei lo avvisò di nuovo dell'opposizione di suo padre e di sua madre. «Ma tu mi ami?» le chiese. «Sì, sì!» gridò lei. «E io amo te, non loro, e nulla di ciò che fanno potrà ferirmi». C'era un tono di trionfo nella sua voce. «Ho fiducia nel tuo amore. Non ho paura della loro ostilità. Ogni cosa può andare persa in questo mondo, ma non l'amore. L'amore non può finir male». A meno che non sia una creatura malaticcia che sviene e inciampa lungo il cammino. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.